La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati amici, eccoci alla Rosa Purpurea in questa versione estesa dell'estate 2011, nella quale oltre all'ora di cinema settimanale di Radio 24 vi proponiamo ogni settimana l'incontro con un grande protagonista del cinema, del presente, del passato, dei tempi recenti. E oggi siamo insieme a un attore davvero di una grandissima popolarità, un attore che ci ha fatto sognare, ci ha fatto divertire, ci ha fatto anche acquistare oli di semi. Questo è anche stato uno dei suoi lavori, dei tanti lavori di Nino Castelnuovo, che saluto. Buongiorno Nino. Ah, buongiorno a te e a tutti i nostri ascoltatori, i vostri ascoltatori. Oggi nostri, dai, siamo insieme per questa mezz'oretta per raccontare un po' della tua carriera. La carriera di Nino Castelnuovo, l'incontro di Nino Castelnuovo con l'arte, con la recitazione, avviene sin da giovanissimo con il Piccolo Teatro di Milano. Nino, tu sei, se non sbaglio, del lecchese, ma praticamente milanese. Beh, insomma, sì, molto lecchese, però ho lasciato Lecco in un'età molto, molto immatura ancora. Avevo 17 anni quando ho lasciato la mia famiglia, sono andato a Milano e ho trovato un lavoro subito. Non è come oggi, allora uno andava, il primo posto dove andava trovava lavoro. Dopo un anno che lavoravo vendendo libri per la casa editrice Einaudi, ho dato gli esami al Piccolo e ho fatto due o tre anni al Piccolo. Ecco, era il Piccolo di Giorgio Strehler, che ricordo hai del certo, grande maestro? Mamma mia, che grande, mamma mia. Un uomo di un fascino e di una vanità incredibile. Io non avevo mai visto nessuno di più vanitoso di Giorgio Strehler, ma aveva un tale fascino lui come maestro e come uomo anche, che spesso le allieve giovanissime in rapporto a lui e le mie compagne di scuola quasi tutte si innamoravano pazzamente di Strehler, quindi comunque un grandissimo maestro. Io all'inizio ero di un imbarazzo quando spiegava le cose, le vocali, le consonanti, come vanno usate. Dico, ma questo è pazzo, pensavo all'inizio. Invece che grande maestro. E invece mi sa che ha fatto un ottimo lavoro, perché tu hai perso qualsiasi connotazione milanese o lombarda nella tua dizione, assolutamente. Ahimè, purtroppo, perché secondo Strehler invece, pensa, questo non, nessuno lo pensa, secondo Strehler un giorno lui invitò a cena me e una compagna di scuola, eccetera, in un ristorante cinese a Milano, si fermò a far benzina e al benzinaio ha detto: dai, fammi il pie della Super. E entrando ridendo come pazzo ha detto: ma scusa, ci insegni le consonanti, le vocali e poi dopo tu parli in milanese, non bisogna mai dimenticare le proprie radici, mi ha detto. Io non sono milanese, mi ha detto, ma però adesso, siccome sto a Milano, parlo in milanese, perché è importantissimo vivere nelle radici dove tu abiti e quindi prendere le cose da lì. Invece io niente, non sono più stato capace di parlare con le cadenze. Quando lui mi ha sentito, quando ho fatto l'esame, mi ha scelto tra vari ragazzi e ragazze che facevano gli esami, e io parlavo con una cadenza lecchese terribile, forse è stato quello il motivo per cui mi ha preso, perché lui mi ha rifatto quel giorno lì stesso e mi ha detto: quando tu mi hai recitato la poesia di D'Annunzio e i Pastori, facevi così, e io te la rifaccio come ho fatto Strehler. Settembre andiamo, è tempo di migrare, ora in terra d'Abruzzo i miei pastori lascio gli stati. Parlavo con questo modo qui, quindi come parlano quei bergamaschi della Lega, insomma, no? Uguale, ecco. Insomma, uno Strehler inedito, dai, questa è un po' la situazione, e poi arriva l'esordio al cinema. Quello che mi succederà a me non mi importa. Ma Assuntina, che ne farete, Assuntina? Lei non ne sapeva niente, ve lo giuro. Non c'entrava niente. Quando l'ha saputo? Prima o dopo che vi siete sposati? Prima. Gliel'hai detto tu? Non ne potevo più. E sta sposato lo stesso. Mi ha detto: sconteremo insieme, mi ha detto. Per tutta la vita. una confessione che fa parte di un maledetto imbroglio, l'esordio al cinema di Nino Castelnuovo, già con, come dire, un ruolo importante. Com'è stato il salto al cinema? Perché a un certo punto, diciamo, dal teatro di Streller, insomma, ti sei sentito attratto dalla settima arte? Io ho avuto una grande fortuna perché allora io, prima di fare quel film, ero un bravissimo mimo a scuola e assieme a Cobelli, a Cino Tortorella, eccetera, inventammo un programma che si chiamava Zurlì Mago del Giovedì e io ero un bravissimo mimo, lì ci volevano dei grandi mimi, eccetera. Durante quel programma, che poi in televisione ebbe un successo enorme per i bambini, mi vide il figlio dello sceneggiatore di Germi che stava preparando un maledetto imbroglio tratto dal pasticciaccio di Gadda, mi vide e disse: papà, guarda, lui sarebbe giusto per fare Diomede, che è il personaggio che poi ho fatto lì nel maledetto imbroglio. Io ricevetti la lettera firmata da Germi, mi aveva preso un colpo. Sono andato a Roma, ho fatto il provino e immediatamente, senza neanche vedere il provino, mi ha fatto scritturare, è cominciato così. Ti racconto questo per dirti che il talento è importante, ma la fortuna ancora di più, insomma. Lì sono molto fortunato. Questo come capita spesso in molte professioni. E dopo quel maledetto imbroglio sei stato scritturato anche da un altro super maestro come Luchino Visconti per Rocco e i suoi fratelli. Di quell'esperienza che ricordo hai? Ma guarda, io mi chiamò l'assistente di Visconti che incontrai a Milano perché mi voleva proporre uno dei figli di Rocco, cioè uno dei fratelli di Rocco, ecco, queste cose che... Ma io gli dissi: sto facendo il film di Germi, perché era contemporanea la cosa. Allora lui mi ha detto: ma io ti voglio comunque... E feci quel piccolo ruolo assieme a Corrado Pani. Ecco, lì ad esempio la lezione di Streller fu importante perché io dovevo recitare con una cadenza milanese fortissima durante un dialogo in un bar mentre giocavamo al biliardo con Corrado Pani, e Visconti mi lasciò così, mi ha detto: non usare quello che hai imparato al piccolo teatro, l'addizione, per l'amor del cielo, parla come mangi, parla come parlavi a Lecco. Ed è stato molto faticoso per me, oltretutto, perché recitare con la cadenza non mi ricordavo più come cavolo si faceva. Invece lui mi ha aiutato molto. Ecco, è vero che era così terribile ed esigente sul set? Molto esigente, ma non terribile. Certo, se non funzionavi ti lasciava perdere, buonanotte, insomma. Ma insomma, due grandi maestri che io ho incontrato, i più grandi maestri che io ho incontrato nel cinema, Luchino Visconti e Vittorio De Sica, in un film che ho fatto a Parigi, Mondo Nuovo, Parigi, eccetera, nel 65, credo, una cosa di 65. Due grandissimi direttori d'attore. Ecco, De Sica addirittura faceva il ruolo mio e della ragazza, la protagonista, che con me faceva questo film. Prima mostrava lei le cose, poi a me. Ma bastava imitarlo. Era di una bravura. Poi la cosa straordinaria è che lui si immedesimava nell'attore, lui si immedesimava in Nino Castelnuovo. Se lo vedevo mi viene da ridere perché mi faceva, sembrava che mi facesse il verso, invece faceva le cose come se fosse Castelnuovo. Mais je ne pourrai jamais vivre sans toi, je ne pourrai pas ne pas par l'amour, je te cacherai et je te garderai, mais mon amour ne me quitte pas. Tu sais bien que ce n'est pas possible, ne te quitte pas. Mon amour, il faudra pourtant que je parte, tu sauras. Je ne pense qu'à toi, mais je sais que toi, tu m'attendras. 1964, Le notte immortali di Michel Legrand, per questo capolavoro assoluto del cinema mondiale che era il Palais de Cherbourg, Palma d'Oro al Festival di Cannes del 1964, una giovanissima Catherine Deneuve e un lanciato a livello mondiale Nino Castelnuovo, perché quella ribalta è una ribalta indimenticabile per un film che a me fa sempre venire la pelle d'oca, non lo so, sono passati quasi 50 anni ed è un film che trovo tuttora totalmente irresistibile. Nino, raccontaci quella storia, l'incontro con Jacques Demy l'essere catapultato in un universo pazzesco, colorato, cantato, ricordiamo un film completamente cantato, l'essere sulla Croisette, sulla Montée de Marche del palazzo, anzi adesso non c'era ancora il palazzo del cinema, c'era ancora la vecchia sede del Festival di Cannes, insomma ti sei trovato buttato dentro un frullatore internazionale dal quale sei uscito come una star. Ma io non mi, purtroppo sai cosa, in questo mestiere uno o nasce ricco, è abituato ai soldi e di persona di successo, quindi abituato al successo, altrimenti è rovinato. Io veramente sono sempre stato molto imbranato. Io quando sono arrivato a Parigi a presentarmi a Jacques Demy, perché mi aveva visto delle mie fotografie e mi ha scritturato immediatamente per fare quel film, che quando io e Catherine, quando stavamo a Cherbourg a girare, ogni tanto andavamo a vedere i materiali girati, non è più come oggi che giri e vedi subito nello schermo quello che sta avvenendo. Allora invece c'era il materiale, si andava a verificare. E noi ci divertivamo molto a vederci lì in queste scene dove cantavamo, però ci guardavamo in faccia, io, Catherine e anche Jacques Demy, ci guardavamo in faccia e dicevamo, poi ci troviamo a Natale a vederlo lui il film, perché chi è che va a vedere questo film? Pensavamo. Invece alla prima a Parigi, mamma mia, mamma mia, un quarto d'ora di applausi al più fisso lì di Parigi, un quarto d'ora di applausi. Sai chi è che ha visto per primo il film? Sofia Loren e Carlo Ponti a Parigi chiesero, siccome era distribuito dalla 20th Century Fox, chiesero alla 20th Century Fox se era possibile vedere la cosa. Io stavo a Parigi perché il giorno dopo c'era la prima e Jacques Demy aveva vergogna di andarci, ci sono andato io in mezzo a Carlo Ponti e Sofia Loren, che si sono commossi, hanno avuto e l'hanno trovato un geniale il film. Io ho detto, porca miseria, vai a vedere che domani è successo questo film. Ebbene, è andata proprio così. Stai con noi, Nino Castelnuovo, perché fra poco torniamo a parlare delle Parapluie de Cherbourg e della tua carriera. La rosa purpurea. Françoise, reste tranquille. Le klaxon n'est pas un jeu. Le note di Michel Legrand delle Parapluie de Cherbourg si fanno struggenti. Questa è la scena finale, il reincontro fra due amori, due persone, appunto Catherine Deneuve e Nino Castelnuovo, che potevano vivere un grande amore, invece non l'hanno fatto, perché la vita a volte ci si mette in mezzo. E proprio su queste note noi continuiamo la nostra chiacchierata con Nino Castelnuovo. Nino, voglio tornare su quel film. Hai parlato di questo successo incredibile, la Palma d'Oro al Festival di Cannes. Un film che in Italia ebbe poca circolazione perché il pubblico italiano era un po' riottoso rispetto all'idea del musical. Però vorrei chiederti... No, ma non era riottoso a proposito del musical, perché poi intanto non è un musical, quello è un film normale dove invece che recitare si canta. È stata la distribuzione italiana che ha detto come si fa a doppiare questo film, perché in Italia se non doppi un film non va nessuno a vederlo, perché non è doppiabile. Assolutamente non doppiabile, infatti. È un successo enorme in versione originale con i sottotitoli in inglese. In Italia invece i sottotitoli non l'hanno distribuito, niente. E questo ha portato appunto a una mancanza nel tuo amor patrio, no? Il fatto di poter essere visto in Italia dagli italiani in una grande produzione francese. Raccontami qualcosa però della figura di Jacques Demy, che è una figura secondo me ancora molto da conoscere, e anche di quella giovanissima Catherine Deneuve. Mamma mia, guarda, intanto Jacques Demy non è un regista, è un per me un padre, un fratello, è la persona più straordinaria. Come rapporto, immediatamente è nato un rapporto appena arrivato a Parigi, al primo incontro, dove a casa di Jacques Demy e Agnès Varda, che è un'altra grande regista, che è sua moglie, c'era anche Michel Legrand, che era musicista, però non sapendo niente ancora, io è finito. Ma insomma Demy è stato già appena mai conosciuto, perché mi ha visto e mi ha detto alla moglie, Agnès Varda, ha detto è lui è Guy. Io ho detto, ma come lui è chi? Chi fosse chi? Era il personaggio. Immediatamente, quindi subito telefonò alla produttrice e disse, ho trovato il protagonista. aveva, la produttrice voleva Alain Delon allora, perché era giusto anche lui. A lui invece dice no, è troppo, no, è troppo una caramella Alain Delon di chi di là, no? E quindi, mamma mia, io poi dopo, quando c'è stata la prima Parigi, c'era anche lui, Alain Delon, vede così, che ci siamo conosciuti quando ho fatto il film di Rocco e i fratelli con Visconti, sì, perché Delon era il protagonista. Assolutamente. E invece Catherine, così giovane, ma cantavate davvero voi? Dunque, Catherine era un periodo tragico per lei, perché aveva avuto un figlio da Roger Vadim, altro regista antico, che inventò, lanciò la Bardot nel cinema, la Catherine Deneuve e un sacco di attrici. Nato il figlio, lui l'ha lasciata e Catherine ogni tanto, mentre si girava, dovevamo interrompere la gara perché scoppiava in un pianto terribile. Cosa succede quando scoppia a piangere un'attrice? Succede che si ferma tutto perché bisogna rifare tutto il trucco. Quindi è stato un momento terribile. Poi anche con Catherine invece lei è deliziosa, lei ancora adesso quando le chiedono di me, lei dice ma Nino è come mio fratello, dice siamo due fratelli io e Nino, abbiamo passato 3 mesi a Cherbourg in un modo straordinario. Ma hai dovuto imparare a cantare però. Beh, imparare a cantare, quando c'è un musicista come Michel Legrand non è che ci vuole molto. Io ho due grandi musicisti ho conosciuto nella mia vita, ma anche adesso ne conosco, ma i più grandi che ho conosciuto sono stati Nino Rota e Michel Legrand. Adesso Nino ti voglio far ascoltare un documento davvero eccezionale, senti. Uno, sei greco, Sì, sì. Ma parli dialetto? Benissimo, più milanese che lecchese però, perché... Un po' una parola in lecchese, in milanese. In milanese? Non so, una battuta del dialogo, dice. Cosa vorreste fare? Come si dice in milanese? Se ve fa cos'è? Ecco, è uno straordinario milanese di Nino Castelnuovo, il provino dei Promessi Sposi, con Bolchi, che ti chiede di parlare in milanese perché dovevi fare Renzo. Anche questa è stata, anzi questa forse è stata, la matrice di maggior successo e di maggior popolarità in Italia per il pubblico italiano, perché appunto Nino Castelnuovo diventa Renzo di questo straordinario sceneggiato I Promessi Sposi, diretto da Sandro Bolchi, e questo era proprio un frammento del provino. È stato anche questo un personaggio che ti ha riportato alle tue radici? Beh, ti credo, a parte fatto, io Bolchi non lo sapeva, il primo giorno di lettura del testo con tutti gli attori e il cast dei Promessi Sposi, io dissi a Bolchi, io sono di Lecco, non lo sai tu, cosa? Io sono di Lecco, sono lecchese. Cosa? Allora ho centrato in pieno il personaggio, mi ha detto lui. Si vedeva che avevi una faccia giusta per fare quel personaggio, perché anche Renzo Travaglino era lecchese, capito? Ho avuto un conflitto interno in quel periodo, io e la mia agenzia, con Jacques Demy, con Bolchi, perché Jacques Demy aveva scritto un altro film che si chiamava Les Demoiselles de Rochefort, che poi lui ha fatto senza di me. Con anche Gene Kelly, tra l'altro. Lui l'ha scritto per me. E io non ho detto, vabbè, io non posso fare I Promessi Sposi, io dicevo alla William Morris, non posso, e William Morris ha detto, guarda, I Promessi Sposi ti darà un successo in Italia incredibile, ma che scherzo, hai bisogno di fargli avere successo molto anche in Italia, non soltanto all'estero. Io non volevo farlo perché oramai c'era un tale legame, niente, poi mi hanno convinto, l'ho fatto, siamo stati 3 anni senza rigorcerci la parola, io dicevo, che sei mia mamma mia. Poi si è ammalato, porastella. Ecco, però appunto questo dice anche come Jacques avesse visto in te appunto quelle doti giuste per i suoi figli, da Magia della Sorte, un altro straordinario capolavoro di colore, di luci e di musica. Però quei Promessi Sposi, ascoltiamo una clip. Io non vi avrò, ma non vi avrà neppure lui. Io qui senza di voi e lui a casa. No, per carità, non dite così, non fate quegli occhi. Io non posso vedervi così. Questa sì, questa gli vuole, ha da morire. E io che male vi ho fatto perché mi facciate morire? E voi che bene mi volete? Che prova mi avete data? E la voglio pregata e pregata. E voi no, no, no. Beh, però dopo I Promessi Sposi la gente ti riconosceva per strada, eh? Mamma mia, ma che scherzi. Non potevo circolare, era una cosa... Io, siccome non ero abituato a questo successo, dopo la prima puntata dello sceneggiato, io abitavo ai Parioli allora, stavo con una ragazza che... Vabbè. Sono uscito come tutti i giorni, mi alzavo, a certa ora andavo al bar Euclide, andavo al bar Euclide a fare colazione, sono tornato a casa dopo 3 ore, non potevo muovermi, una cosa terribile, sono stato bloccato al bar, dal giornale, una cosa terribile, dopo la prima puntata, perché siccome allora non è come oggi dove ci sono tanti canali, quindi uno può cambiare. C'era quello, o vedi quello o niente. E poi, come dire, il romanzo nazional popolare per antonomasia, adesso con tutta la grandezza. Milioni di persone di colpo ti vedono a fare una cosa del genere, il giorno dopo non puoi più circolare, è una cosa pazzesca. E questo accade, Nino, anche con un altro sceneggiato, di cui voglio farti ascoltare questa scena, sentiamo. Là, ecco. Buongiorno, facciamo il pieno? No, 5. 5.000? 500. 500, ma non parte neanche. Beh, casomai mi dai una spinta. Boh. È una pulitina ai vetri, eh? Pure. Dai, spingi. No. Ritratto di donna velata. Vedi che anche qui la lezione di Streller questa volta sulla benzina ti era servita. Ma sai che ti dico una cosa adesso? Tu sai il successo che ha avuto i Promessi Sposi, una cosa di 20 milioni di ascoltatori, eccetera, 8 puntate. Lo sai che il ritratto di donna velata è ricordato più di Promessi Sposi? Lo sai perché? Perché faceva paura. C'erano due cose in quel periodo lì che hanno fatto paura. Uno era il ritratto di donna velata e un altro era il segno del comando con il mio amico Ugo Pagliai. I due sceneggiati che hanno avuto più successo. Perché? Perché erano due sceneggiati con delle sue suspense terribili, c'era un thrilling, capito? Sì, il protagonista eravamo io e Daria Nicolodi. Questo era Ritratto di donna velata, un altro sceneggiato, come dici tu, grande successo anche perché è uno sceneggiato contemporaneo, cioè nel quale la gente comunque poteva riconoscere la sua epoca, anche venato di ironia, come abbiamo sentito da questa, che era una delle prime scene. Dobbiamo saltare ancora, perché poi da parlare della tua carriera ce ne sarebbe, le commedie sexy all'italiana con Gloria Guida, cioè ce ne sono tante, ma un altro elemento di grandissima popolarità con Nino Castelnuovo, di empatia con il pubblico italiano, arriva grazie a una pubblicità. Oggi ho la scena dell'agguato. Pronti? Per noi attori l'allenamento è importante. Sai sempre saltare la staccionata? Ma certo! Come sempre! Staltavi la staccionata per l'olio cuore e anche lì c'è stata un'identificazione, c'era diventato quasi un modo di dire che si usava nei bar quello. Il primo regista di quello spot è stato Giuliano Montaldo. Giravamo in esterni a Monza, al parco di Monza, e durante una pausa della lavorazione arrivano coi cestini per far mangiare la troupe, eccetera, e io di corsa, per non arrivare ultimo, far la fila, per arrivare prima degli altri ho saltato una staccionata. Montaldo l'ha vista, è venuto vicino mentre mangiavo, mi ha detto: senti, mi faresti un favore? Dopo potresti rifarmi quello che hai fatto, che io lo filmo. È stato il successo dello spot. E pensa che per fare quegli spot lì c'erano 5 o 6 creative che preparavano gli storyboard. È una cosa pazzesca. Il grande successo è stata la staccionata. Ancora oggi, ma sa che la ricordo bene quando saltavo la staccionata. Facevo teatro e le persone vedevano il camerino e mi dicevano: l'ho vista ieri che saltavo la staccionata. non potevi più liberarti da questa ossessione. Non riesco più a liberarmi anche tutto materiale, tra l'altro, che adesso con YouTube eccetera si può recuperare, anche per i più giovani, voglio dire, si può recuperare tranquillamente in rete. Io, Nino, siamo arrivati in fondo a questo excursus nella tua straordinaria e variegata carriera. Ti voglio fare una domanda, appunto, che chiude un po' il discorso. Abbiamo detto i grandi successi internazionali, Jacques Demy, i Promessi Sposi, la popolarità televisiva, la pubblicità, le commedie. Nino Castelnuovo, che bilancio tira della sua carriera di attore? Cioè, è vero quello che io ho detto in apertura di trasmissione, secondo te, che forse però il cinema italiano, non so se usare il termine snobbato, ma insomma ti ha un po' utilizzato solo per una parte della produzione industriale del cinema, quando forse alcuni film dimostrano che potevi starci tranquillamente dentro il cinema dei grandi maestri degli anni 70 e 80, per intenderci. Lo sai che cosa? Che gli attori purtroppo hanno delle carriere particolari. Tantissimi attori, grandissimi, sono stati usati soltanto per fare certe cose, certe altre venivano snobbati. Perché sia il cinema che il teatro, oggi e anche allora, bisognava essere non soltanto bravi, ma avere un physique du rôle abbastanza preciso. Io credo no, io credo di essere stato molto fortunato e quindi probabilmente anche, come dici tu, un pochettino snobbato, diciamo, ecco, ma credo che faccia parte proprio dei meccanismi del mondo dello spettacolo, questo il fare soltanto determinate cose, determinati personaggi, determinati ruoli, con determinati registi. E allora grazie a Nino Castelnuovo per averci raccontato in questa mezz'ora tantissimi anni di una carriera davvero straordinaria. Risentirci, Nino. Grazie a te, grazie, auguri. La Rosa Purpurea. Ancora insieme, amici, alla Rosa Purpurea, siamo arrivati all'ora di cinema settimanale di attualità cinematografica qui su Radio 24, con tutte le novità che arrivano in sala in questo weekend di Ferragosto. Un weekend con almeno tre nuovi film in sala, che tutto sommato non sono pochi per un pezzo di stagione di questo tipo, e poi il nostro viaggio che continua sui set dei film estivi, delle novità italiane che vedremo al cinema nella prossima stagione. Ma riepiloghiamo i contenuti nei nostri titoli di testa. Che fare se tuo padre in punto di morte ti regala un pinguino vivo? Soprattutto se abiti a New York e se per sbaglio te ne fai spedire altri 5. È quel che accade a Jim Carrey, protagonista de I pinguini di Mr. Popper, edificante commedia per famiglie su come l'amore possa rinascere anche grazie a un pennuto. Nei cinema italiani, Hanna, l'adolescente soldato venuto dalla Svezia. Addestrata dal padre, ex agente della CIA, la ragazza andrà in missione per l'Europa, braccata da emissari senza scrupoli, alla ricerca delle risposte sulle sue origini. Con Saoirse Ronan, Eric Bana e Cate Blanchett. Almeno tu nell'universo, cantava la grande Mia Martini. Ora l'auspicio di quella canzone diventa il titolo di un film, una commedia giovanil sentimentale all'italiana. Storia di amori, sguardi languidi e cuori infranti. E se qualcuno girasse per Napoli con la criptonite nella borsa? È la preoccupazione di Gennaro, che va in giro vestito da Superman nella Napoli degli anni 70. Ora il libro di Ivan Cotroneo diventa un film e lo scrittore si trasforma in regista. Nel cast Valeria Golino e Cristiana Capotondi. Ne parliamo nello spazio dedicato ai film italiani del prossimo autunno. E se un giorno vi regalassero un pinguino, e se ve ne regalassero invece sei e abitaste nel centro di una grande città, diciamo New York, beh, Mr. Popper, al secolo Jim Carrey, saprebbe cosa fare. Anzi no, inizialmente non saprebbe proprio cosa fare, ma poi l'amore trova tutte le soluzioni. Arriva nelle sale italiane I pinguini di Mr. Popper, tratto da un classico della letteratura per ragazzi degli anni 30, solo che il Mr. Popper lì era povero in canna, qui invece è ricchissimo, fa l'agente immobiliare di lusso e vive in un super attico affacciato sull'Empire State Building. Oh Lord, I go for penguin. Tom Popper ha pochi ricordi del padre, un geografo esploratore sempre in giro per i quattro angoli del pianeta. Popper vende case a Manhattan ed è il più bravo nel suo lavoro. Non è altrettanto bravo come padre dei suoi due figli, tanto che si è separato. La carriera, si sa, è la peggior mangiafamiglie. Un giorno a Popper viene consegnata una cassa di legno con un messaggio di suo padre che, in punto di morte, ha voluto fargli l'ultimo regalo o dispetto. Un pinguino, vero, vivo, starnazzante. La prima reazione è tentare di liberarsene, magari aiutandolo con un bel velo d'acqua su cui farlo scivolare per le scale. Ok, fine, sparisci. D'accordo, ti serve un aiutino. Guarda qui! E... ecco fatto! Sì! Bye bye, baby. Ehi, signor Popper? Sì? Ho recuperato il suo pinguino. Quel pinguino non è mio. Ma davvero? Perché dovrei avere un pinguino? Potrebbe essere chiunque. Oh, certo. Proprio in quei giorni Popper, che ha cercato, avete sentito, di mentire al portinaio dello stabile, sta cercando di chiudere l'affare del secolo, che potrebbe dargli una promozione nella società immobiliare per cui lavora. Comprare il Tavern on the Green, il celebre, lussuoso ristorante, unica proprietà privata sul territorio di Central Park, per farne poi una grande speculazione edilizia. Ma l'anziana signora che lo gestisce non sembra troppo per la quale Popper sta cercando di convincerla, ma con un pinguino in casa non è facile rispettare orari e appuntamenti, così. Protezione animali, mi ha chiamato per un uccello. Sono molto felice di vederla. Oh, ecco il nostro amico. Ma è... Lo prenda pure, è docile. È un pinguino, devo controllare sul manuale. Sul manuale non c'è. Diciamo che è un piccione. Un piccione pingue. Non posso toccarlo, è violazione del contratto sindacale. Provi caccia e pesca. No. Si deve rivolgere a fauna marina. Spiacente, signore. Provi l'ufficio di igiene di New York. Già, io prendo solo quelli morti. Popper, esasperato, telefona all'assistente del padre, che però per un misunderstanding linguistico gli manda un'altra cassa, stavolta con 5 pinguini che faranno compagnia al primo. Sì, ora ragioniamo. Ghiacciolo in frac. È arrivata la limousine. Qualcuno va a fare un viaggetto oggi? Un viaggetto a casa, no? Allora, pinguino, niente lunghi avvii, ci siamo. Ehi, preso! E hai perso! Adesso ti chiudo dentro. Ma dove vai, Ma che... La casa è invasa e devastata. C'è solo un modo per tenere buoni i pinguini: accendere la TV e mettere su un film di Charlie Chaplin. I pennuti vedono qualcosa di familiare nelle sue movenze. Popper fa i salti mortali per tenere nascosta la cosa, ma quando i suoi bambini scoprono con quale razza di coinquilini viva il padre, diventa praticamente impossibile disfarsene. Anche perché la tenerezza con la quale Popper si immerge nel ruolo fa breccia nel cuore della ex moglie, che torna a guardare Tom con gli occhi di una volta, diviso fra gli appuntamenti con la padrona del tavern, la casa che diventa sempre più una succursale ghiacciata dello zoo, l'entusiasmo dei bambini e il cuore della moglie. Popper intraprende un viaggio che lo allontanerà dal perfezionismo asettico dell'agente immobiliare e lo avvicinerà a se stesso. Signor Popper, questo è il più importante evento culturale della stagione. Ho organizzato questa serata con grande precisione. Wow, wow, che splendido brano musicale suonano giù. Mi concede questo ballo di sotto? Lei è tenace, Popper. Gliene do atto. Prego. Oh, grazie. Fissami. Chi è il responsabile di tutto questo? Scommetto che è lei. Smile though your heart is aching. Smile even though it's breaking. È una commedia natalizia fuori stagione, questa dei pinguini di Mr. Popper. Per gli ambienti ghiacciati e invernali, per la magia delle ambientazioni newyorkesi, per quel caldo senso di ritorno alla famiglia che la pervade e per la morale da favola buona. È con l'amore che Mr. Popper ritroverà se stesso, riconquisterà i suoi cari e otterrà l'affermazione nel lavoro. Più Natale di così. E invece questo film arriva a Ferragosto. Troverà un pubblico adatto? Il film è per famiglia al gran completo, dai 2 agli 80 anni, quindi va bene anche per una serata al mare. Jim Carrey mette a servizio di questa storia la sua faccia di gomma, rivaleggia con i pinguini, splendidamente animati, sembra il personaggio di un film di Frank Capra. Nella sua trasformazione da perfettino immobiliarista ben vestito a semibarbone domestico totalmente dedito ai pennuti, c'è la catarsi che molti di noi sentono di dover affrontare, magari in maniera più graduale, quel ritorno all'io da cui la vita, giorno per giorno, ci allontana. Nei panni della moglie in Riavvicinamento c'è Carla Gugino, in quelli dell'arcigna proprietaria del Tavern una leggenda come Angela Lansbury, al secolo Jessica Fletcher. A proposito, la vicenda della vendita del Tavern on the Green è vera. Il 31 dicembre del 2009 il ristorante chiuse dopo quasi un secolo, affossato dai debiti. La Sala dei Cristalli è stata smantellata e il luogo è diventato un infopoint della città di New York. Ora Donald Trump ha offerto 20 milioni di dollari per gestirlo e ricostruire quella sala in cui si svolgono alcune scene del film, e anche questa capacità di mettere il vero nell'inverosimile che piace del cinema americano. Complessivamente I Pinguini di Mr. Popper è una buona family comedy con qualche schizzo di melassa di troppo, ma divertimento assicurato soprattutto per chi ha amato tutti i pinguini recenti del cinema di animazione. Sentiamo come vanno le cose sulle strade di Ferragosto. Fra poco torniamo per parlare di altri due film, Almeno tu nell'universo e Anna. La rosa purpurea. Ma i luoghi non sono importanti. Siamo noi a renderli magici. La vita non è come pensi tu. Crescendo, quando sei adulti, le cose cambiano, Marco. Cambiano. Questa notte tua madre mi ha telefonato che piangeva. Era molto preoccupata. Ma che vuole questo mio padre? È normale avere paura di morire. Se hai qualcosa da perdere, sì. Potevamo non incontrarci mai. E le note di Mia Martini che ci riportano nel mondo della rosa purpurea, nel mondo del cinema. Perché, direte voi? Perché questo film, di cui abbiamo appena sentito parte del trailer, si intitola proprio Almeno tu nell'universo ed è una delle proposte di questo Ferragosto 2011. Abbiamo prima parlato del ghiaccio con I Pinguini di Mr. Popper, adesso invece il caldo della voce di Mia Martini e Boris Sollazzo, che spero essere un grande amante della voce di Mia Martini, che ci racconta questo film di cui penso non sia un grande amante. Allora, io sono un folle amante della musica di Mia Martini, che considero veramente la migliore donna della musica che ci sia stata. Proprio sono, mi commuovo anche alle sue canzoni, piango come ho pianto di fronte a questo film, però non per la bellezza del suo film. Dicono i due protagonisti, potevamo non incontrarci mai. Io l'ho ardentemente sperato, devo dire. Purtroppo invece si sono incontrati. Non è tanto colpa degli attori, che pure non sono straordinari, la Coretta è bellissima, è anche bravina, però è proprio uno di quei film giovanilistici che la sua dichiarazione la fa in fondo fin dal titolo, insomma. C'è chi pensa che per avere successo basti mettere il nome di una canzone in un titolo di un film dopo Notte prima degli esami. E pensare che io speravo, forse in cuor mio, ma pensavo anche, pensa dove arrivavo a illudermi, che il moccismo fosse finito al cinema, cioè che quella parentesi nella quale bastava mettere adolescenti in amore in scena potesse considerarsi esaurita. Invece evidentemente non è così. Ma guarda, ho l'impressione che questo sia fuori tempo massimo. È il tentativo con la Key Film di Occhi Pinti di avere anche, diciamo, una parte della sua casa di distribuzione, un altro marchio con cui fare cinema commerciale e finanziarsi, ovviamente, il cinema d'autore che fa con Lucky Red. E questo mi sembra un po' fuori tempo massimo, mi sembra essere stato scritto e pensato quando Da tre metri sopra il cielo a vari film con Vaporidis e compagnia, il genere andava bene ed esce adesso, e spesso e volentieri sembra proprio Tre metri sopra il cielo, cioè sembra richiamarsi a quel tipo di cinema là, con due storie concentriche, due amici molto diversi, un dramma imminente, in questo caso la malattia della protagonista, però tutto fatto con quell'enfasi giovanilistica che credo non piaccia neanche ai giovani. Adesso io probabilmente sto diventando vecchio, ma temo che non piaccia neanche ai giovani in quella maniera, perché mi sembra anche un ritratto di una generazione abbastanza avvilente. E poi devo dire che un film così, al di là di tutto, al di là che è fuori tempo, sono totalmente d'accordo con te, ma metterlo in sala il 13 agosto vuol dire massacrarlo, cioè vuol dire sostanzialmente non crederci. No, assolutamente. Il 13 agosto mi sembra forse il senso che Occhi Pinti rimane comunque un bravo conoscitore di cinema, e quindi forse dopo averlo visto ha pensato che era meglio non togliere settimana ad altri titoli del suo listino e di provare, insomma, a vedere se quelli che erano rimasti in città degli adolescenti vacanzieri ci cascavano. Oh, ma dove cazzo ti sei fermato? Ma non la vedi la rampa? Oh, ma sei tu che mi sei saltato addosso. Papà, ti posso richiamare con un appuntamento di lavoro adesso? Hai capito, Lisa? Che è una contorsionista. Io almeno avrò dei ricordi. E tu? Life can turn this time. Senti, il trucco di scambiare il telefono è veramente antico. Ma che stai dicendo? Chi sei, scusa? Ve lo rubi a fare il telefono se poi lo tieni spento. Noi siamo Kira e Daphne. Daphne! Bella! No, veramente Daphne sarei io. Non ci posso fare le cose che già sai fare, mi piace mettermi in gioco. Ci sono persone che si possono innamorare, altre no. E tu a quale gruppo appartieni? Eh beh, non te lo dico. Allora, tra l'altro quella di Kira e Daphne con lo scambio con la cagnolina è una battuta che usavo nell'82 più o meno per abbordare le ragazze. Benissimo, Boris, grazie per averci parlato, sebbene male, ma insomma ci vuole ogni tanto, di Almeno tu nell'universo. Ci sentiamo e ci troviamo qui alla Rosa Purpura la settimana prossima. Assolutamente sì, sempre pronto. E adesso allora è il momento di giocare insieme con il nostro DVD Game. In questo agosto stiamo giocando con dei grandi classici e cominciamo a sentire la prima traccia del film misterioso di oggi. Allora avrà voglia di parlare. Ci fermiamo a cena? Blix avrà un paio di smoking da prestarci. Posso dire qualcosa anch'io in proposito? Veramente no, ma l'ascoltiamo. Questa è la prima traccia del film misterioso di oggi, La Rosa Purpurea @radio24.it per provare a vincere il DVD di questo film. Più tardi ci saranno ancora due possibilità. Sulle note dei Chemical Brothers parliamo di Anna, questo il terzo film di cui ci occupiamo in questa puntata ferragostana della Rosa Purpurea. Anna ha 16 anni e vive nella foresta con il padre, uccide i cervi con l'arco, li sventra a mano e poi se li mangia. Nella capanna di tronchi d'albero impara a sopravvivere e a non fidarsi di niente e di nessuno. Anna è la figlia di un ex agente segreto. Come siano finiti lì, nella foresta innevata, è uno dei misteri del film. Fatto sta che per una ventina di minuti buoni ne seguiamo le gesta nella sua giornata tipo. Anna dorme con un occhio sempre aperto. Il padre, buon tempone, ogni tanto le fa un agguato per vedere se lei è reattiva. Giochi di guerra, esercizi di sparo. Comprendiamo che si parla dei nostri tempi, ma non sappiamo perché. Sappiamo solo che Anna è addestrata per essere un assassino perfetto. L'istruzione di Anna è demandata a due strumenti: una vecchia enciclopedia, da cui la ragazza attinge contenuti del tutto teorici, che non hanno alcun riscontro nella sua vita quotidiana, e un libro di fiabe un po' gotiche, con cui si addormenta. Sul tavolo di legno c'è un marchingegno con un bottone rosso. Quando ti sentirai pronta, Anna, potrai schiacciarlo e Marissa Wigler, la perfida Marissa, ti troverà in un attimo. Ciao Anna, io sono il dottor Burton. Ciao. Ti va di parlare con me? Voglio parlare con Marissa Wigler. Dile che arriverò stasera. Sono Marissa Wigler. Volevi parlare con me? Tranquilla. Non piangere. Questa storia non deve uscire da qui. Da un'occhiata al suo sangue. Non può essere. Si è formata con Eric Keller. Ho lavorato con lui. Sa cose che non vorreste immaginare. Ricorda quello che ti ho detto, te la caverai. Ripetilo. O ti adatti o muori. Decidi al volo. Anche mentre dormo. La Wigler arriva con gli elicotteri e le teste di cuoio. Anna ne lascia a terra un paio, poi soccombe. La ritroviamo rinchiusa in una prigione di ferro e cemento futurista, sotto il deserto del Marocco. Una mezza strage anche lì. Anna corre, come faceva Lola un po' di film fa, e sopra la prigione, fra le dune e i miraggi, ci sono alcuni terrestri. Sono i primi che Anna veda nella sua vita. Gli altri li ha immaginati, come quella foto di sua mamma, che chissà dov'è. Tu chi sei? Sono Anna. Se vuoi che siamo amiche, devi essere sincera con me. Vorrei averla un'amica. Adesso ci baciamo. Sei proprio matta. Anna? Ti prego, volevo solo baciarti. Cosa vuoi, Marissa? Devi fare alcune cose che la mia agenzia non mi permette di fare. Ci sono persone che vogliono farmi del male. Qualunque cosa succeda, non seguirmi. Anna! Ho cercato di prepararti. Non mi hai preparata per questo. Corri, piccola volpe! Alla fine era come speravi. Meglio. Anna scappa con una famiglia mezza hippie in camper, la segue in giro per l'Europa, ospitata a bordo o in incognito. Scappa perché col papà ha un appuntamento dato sulla fiducia prima dell'irruzione della Wigler, appuntamento a Berlino, braccata però dalla stessa Marissa e dai suoi tirapiedi. La resa dei conti si concentrerà in un parco giochi abbandonato, pieno di lupi e di orchi, nella casa di Cappuccetto Rosso. L'inizio con La caccia al cervo è fulminante. Per mezz'ora ci illudiamo di essere di fronte a un film veramente nuovo. La prima parte, le nebbie della foresta, le mura asettiche del carcere sotterraneo ci seducono e poi ci abbandonano. Joe Wright, regista di talento di film come Espiazione, Il solista, perde presto di mano il bandolo della matassa, complice una sceneggiatura che azzarda troppo e non sta in piedi. Fatto sta che da quando Anna, la bionda, quasi albina e molto brava, Saoirse Ronan, entra nel mondo dei vivi, il film stenta fra le sprezze di una cattivissima Kate Blanchett, una Marissa cui il doppiaggio non rende servizio, e l'irritante ruolo del suo tirapiedi, un Tom Hollander che nell'andatura cita a sproposito l'Alex Delarge di Arancia Meccanica. Alla fine quasi se la cava Eric Bana nel ruolo di papà, eppure il piano c'era: addestrare una figlia per anni per prepararla a un appuntamento con la vendetta che fatalmente sarebbe arrivato. Ma il film si sfilaccia, pur illuminato in certi frangenti dai lampi di ingegno di Joe Wright, come le scene ricostruite allo Spree Park di Berlino Est, soprattutto la casa dei Grimm, abitata dal tarantiniano Martin Wuttke, l'Hitler di Bastardi senza gloria, e gli inseguimenti fra i container del porto di Amburgo, un'opera irrisolta, non riuscita, ma non priva di fascino. Sandy. Tell me about it, Stud. Perché vi stiamo facendo ascoltare You're the One That I Want dalla colonna sonora del mitico Grease? Certo, sarebbe da sentire tutta. Perché Grease torna nelle sale cinematografiche italiane proprio da questo fine settimana in una versione che si chiama Sing Along, la versione cantabile. In tantissimi cinema, va davvero con una copertura praticamente a tappeto nelle grandi città, nei centri di vacanza. Grease torna per far cantare il suo pubblico, quello di ieri e quello di oggi. Andate al cinema e per una volta non dovete dire a quello di fianco di non fare rumore con le caramelle o di stare zitto, perché il gioco è proprio cantare. Grease sarà presentato nella sua versione originale con i sottotitoli delle canzoni e ci sarà la possibilità di cantare ad alta voce, a squarciagola, tutte le canzoni di questo splendido film. Quindi andatevi a informare su internet. Dal 12 agosto in tutti i cinema d'Italia c'è di nuovo Grease. E adesso linea alla regia, fra poco torniamo per parlare dei set estivi, dei nuovi film italiani della prossima stagione, parleremo della criptonite nella borsa e degli sfiorati. La rosa purpurea. Abbandonata l'attualità cinematografica di questo fine settimana agostano, ferragostano per la precisione, addentriamoci ancora, come stiamo facendo durante questa estate, qui alla Rosa Purpurea, sui set dei film italiani della prossima stagione, ormai imminente, finché vedremo tra l'autunno e la primavera prossime. Allora, si comincia con un film che ha un titolo che è un po' tutto un programma, si intitola La criptonite nella borsa. È un film che non è ambientato dalle parti di Superman, bensì a Napoli, anche se c'entrano le due cose. Autore del libro da cui è tratto e autore anche della regia, di questo vero e proprio esordio alla regia, è Ivan Cotroneo, che ci racconterà il film insieme a una delle protagoniste d'eccezione. Una è Valeria Golino, l'altra che abbiamo incontrato, Cristiana Capotondi. Sentiamo. Si chiama La criptonite nella borsa perché è uno dei personaggi centrali del film. è Gennaro De Cicco, un ragazzo che vive nel quartiere centrale di Napoli, il quartiere Pendino Mercato, quello di via Tribunali, di via Duomo, eccetera, e va in giro con una calzamaglia bucata e una mantellina da parrucchiere e crede di essere Superman. E ferma tutti i passanti, fra cui anche Valeria Gulino, la nostra protagonista, madre di Peppino, per controllare che non abbiano la criptonite nella borsa. Quello che succede abbastanza all'inizio di questo film è che Gennaro De Cicco, alias Superman, muore in un incidente, viene travolto da un autobus in corsa, ma la fantasia del bambino, che è il motore del film, lo fa rivivere come una specie di suo angelo custode, accompagnatore, qualcuno che cerca di risolvergli i problemi che intanto succedono nella sua famiglia. E questo Superman napoletano si presta a cercare di risolvere come può, ma in realtà non conclude niente di buono, perché appunto è nato dalla fantasia di Peppino, e Peppino è un ragazzo che vive in una famiglia piccola piccola con difficoltà economiche, dove c'è un padre traditore, una madre diciamo che nel cui intimo è in corso una ribellione, e quindi anche il suo eroe di riferimento è un eroe un po' mancante, insomma, che fa quello che può. Però il film racconta proprio questo, insomma, come la fantasia, anche una fantasia che non sogna cose straordinarie, ma sogna semplicemente un'altra chiave della realtà, può salvarti la vita o può comunque aiutarti a vivere meglio. Mi sembra, così, volendolo datare dopo Gomorra, ma non so se è vero, però insomma mi sembra un po' così, e soprattutto negli ultimi tempi, che il cinema abbia riscoperto Napoli e la Campania come territorio, come set, come location, ma non più e non solo per una chiave macchiettistica o folcloristica del territorio, ma come set e basta, cioè come set universale per far recitare la commedia umana. Ecco, è così? Tu perché sei arrivato lì? Beh, immagino per il libro, però ecco, come la vedi questa cosa? Ma un po' è così, a volte appunto quando succedono queste cose è semplicemente una coincidenza temporale, non è una reazione a un film peraltro bellissimo secondo me come Gomorra, però c'è una tendenza spesso parte di persone napoletane a voler o cercare, o forse addirittura prima di cercare, a voler vedere in Napoli delle chiavi diverse. Insomma, io appunto sono stato assistente alla regia di Pappi Corsicato per due film come Libera e Buchi Neri, in cui era presentata una Napoli comunque completamente lontana dagli stereotipi, e se penso al lavoro fatto in questi anni da Mario Martone, da Capuano, da Stefano Incerti, insomma da registi napoletani, abbiamo cercato, credo istintivamente, non come programma, di parlare delle cose di Napoli che ci hanno colpito di più. E questo capita a volte che non siano le stesse cose che colpiscono di più persone che vengono da fuori. Insomma, nel cortometraggio, per esempio, di Terry Gilliam, di cui Cristiana è protagonista, c'è una Napoli che è contemporaneamente molto vera e molto inventata, ma è molto vista dagli occhi di un non napoletano, così come un altro bel film che mi è capitato di vedere quest'anno, che mi ha molto incuriosito, che era il film musicale Turturro, Passione. Io vedendolo ho avuto anche un po' di invidia, perché ho pensato è un tipo di immagine di Napoli che io da napoletano non riesco a vedere. Però possiamo fare altre cose su Napoli, e una di queste è mostrare forse degli sguardi obliqui che non tutti conoscono, insomma, non soffermarsi soltanto sulla cronaca o sulla notizia. C'è una circostanza curiosa: quando io ho scritto sia il libro che il film, sono ambientati nel 1973, e per chiunque sia napoletano, il 73 è un anno segnato da un evento molto particolare, che è l'epidemia di colera. E dall'inizio io non ho sentito nessun bisogno, e quello direi che è stata una scelta, di avere questo elemento nel mio libro, che invece parlava d'altro, appunto parlava della formazione di un bambino, parlava della stravaganza di una famiglia, parlava di un set che è quello di Napoli, ma tutto sommato è una storia universale. E così quella circostanza, che pure è del 1973, non è presente nel libro, non è presente nel film. Forse chi racconta una storia sceglie di raccontare una cosa invece che un'altra, sceglie un punto di vista, e anche semplicemente selezionando, scegliendo di non fare una cosa piuttosto che un'altra, insomma, come dire, esprime il suo sguardo, quello che ha voglia di raccontare. Però appunto non credo che sia una reazione, perché è vero che Napoli è tutte queste cose, la Napoli di Terry Gilliam, è la Napoli che ha raccontato Garrone e che credo racconterà anche nel prossimo film, è quella di Incerti Corsicato, e se ho fatto un buon lavoro spero che sia anche la mia. Beh, la prima volta che Ivan ha visto la sua titina, che è il nome del mio personaggio a Napoli, è stato proprio in un'occasione. Io ero a Napoli a girare il cortometraggio di Terry, Ivan è venuto sul set, insomma ci siamo incontrati in Corso Umberto, che è una delle rettifilo che porta alla stazione, che è, diciamo, limitrofo al quartiere in cui è ambientato il nostro film, che è il centro di Napoli, quartiere Mercato Pendino, ed è stato lì per la prima volta, insomma era gennaio, avremmo iniziato a girare ad aprile. È stato bello. Poi appunto questo personaggio io me lo cullo interiormente da 2 anni, da quando alla fine di Sissi mi ha fatto leggere il romanzo, quindi sono felice, perché sono quelle cose che nascono anche da un incontro, da un'amicizia. E allora Ivan Cotroneo e Cristiana Capotondi per parlare della Kryptonite nella borsa, una delle novità al cinema della prossima stagione in Italia. Adesso ne affronteremo un'altra, ugualmente interessante. Prima però continuiamo a giocare con il nostro film misterioso. Ascoltiamo la seconda traccia. E perché dovrei trasferirmi in città? Gli uomini sono partiti, ci preoccupano i nativi. Abbiamo degli ordini, donne e bambini in città. Questo è un internamento, tenente. Le donne e i bambini, baronessa. Avete indovinato di che film si tratta? Scriveteci il titolo e il vostro indirizzo alla rosa purpurea @radio24.it per provare a vincere il Blu-ray di questo che è un classico assoluto del cinema contemporaneo. Noi andiamo avanti perché, come vi dicevo, abbiamo un altro film di cui parlare, un altro film italiano che arriva nelle sale cinematografiche nella prossima stagione, che è appena finito, anzi è in fase di post-produzione e di montaggio. Si intitola Gli Sfiorati, lo dirige Matteo Rovere, nel cast tra gli altri Claudio Santamaria, Michele Riondino e Asia Argento. Ascoltiamo la clip e poi facciamoci raccontare la storia dal regista Matteo Rovere. Sono quelli che sembrano sempre lontani, distratti. Sai quando sei davanti a qualcuno e ti domandi: ma mi starà ascoltando? Ma mi ama? Ma ha capito? Ecco, quando non hai una risposta per tutte queste domande, probabilmente sei davanti a uno sfiorato. Gli sfiorati possono attraversare delle cose meravigliose o anche cose terribili. Cose che magari gli altri nemmeno vedono. Cioè, qui siamo in un altro mondo. Il film si chiama Gli Sfiorati, è tratto da un romanzo di Sandro Veronesi, omonimo, e racconta la storia di questi due fratellastri, Mete e Belinda, e di questa loro convivenza forzata che li porterà un po' a conoscere loro stessi, a conoscere il mondo che li circonda, a porsi domande sulle cose che questo mondo porta a loro e porta agli altri, tutto all'interno di questo universo di sfiorati, che è un universo di questa categoria umana, gli sfiorati, inventata da Sandro Veronesi e che poi in qualche modo il film cercherà di spiegare e raccontare agli spettatori, che potranno decidere se identificarsi o meno in questa categoria. Se sono sfiorati a loro volta o meno. Ecco, sfiorati da cosa? Tu raccontacela un po' invece questa, la versione di Sandro. Dunque, la versione di Sandro è molto interessante perché secondo Veronesi e poi anche secondo il film tutti noi viviamo una parte della nostra vita in modo consapevole e un'altra parte in modo più sfiorato, afferma lui, ovvero ci sono tutta una serie di eventi che noi accettiamo più o meno consapevolmente di vivere, ponendoci dei limiti, ponendoci delle regole, cercando di sottostare a dei dogmi più o meno corretti o più o meno validi, che poi forse probabilmente magari non ci fanno vivere ogni cosa fino in fondo, o comunque ci fanno poi combattere per vivere effettivamente le cose che sentiamo. E gli sfiorati sono poi quelli che più degli altri sono in grado di farsi sfiorare, di farsi toccare appena dalla gravità di tutta una serie di cose che nella vita si può essere chiamati ad affrontare. E il film è un po' un'istruzione per l'uso, per riconoscere questi individui, e secondo me lo siamo un po' tutti, nel senso ognuno di noi ha una piccola caratteristica che la avvicina al film e a questi personaggi, e può poi, secondo me, in modo divertente e drammatico insieme, stabilire quanto questa caratteristica domini o la propria vita, o quanto forse qualcuno di noi ha bisogno di una spinta emotiva in più per decidere di, come dire, dico banalmente, vivere fino in fondo, cioè affrontare le cose, le sfide, i sogni che la vita gli propone. Mi pare di capire dalle tue parole che la categoria di cui si parla è quella dell'impegno, cioè quanto calarsi dentro le cose, o quanto invece magari sia forse anche un livello di protezione che si mette, no? Quello di farsi solo sfiorare appunto dagli eventi e di non mettercisi fino in fondo. Sì, diciamo che qua si parla più che altro di eventi e vicende emotive, cioè mi innamoro di una persona, quanto posso compromettermi per inseguire questo amore? Ho un sogno lavorativo? A cosa posso rinunciare, cosa posso perseguire per arrivare a questo obiettivo? Ho una crisi con un amico, con un fratello, con un parente? Che cosa sarà la mia vita se accetto di, come dire, ignorare quello che sta succedendo e di andare avanti, oppure se decido di affrontarlo? La dose con cui si affrontano, secondo me, tutta una serie di cose, soprattutto emotive, all'interno dell'esistenza, è raccontata profondamente nel film, negli Sfiorati. E secondo me questo viene fatto in modo ambiguo e sempre diverso, perché io ho fatto un film, secondo me, che poi divide in qualche modo le persone, dividerà le persone che lo vanno a vedere, non in senso di critica o di gusto, ma secondo me qualcuno in questo film vedrà un dramma e qualcuno vedrà una commedia molto divertente, e questa era un po' la sfida che mi ponevo e che spero di essere riuscito a raggiungere. Senti, come si conviene appunto a ogni giovane regista, la domanda è anche il tuo background cinematografico, cioè dove hai maturato il tuo immaginario? Dunque, è molto complicato, perché poi il percorso individuale si compone di tante cose anche eterogenee, nel senso l'immaginario delle persone, l'immaginario appunto di un regista poi fonde tutta una serie di arti diverse, perché c'è l'immagine, c'è la fotografia, c'è la musica, c'è la scrittura, e quindi forse sono tanto importanti dei romanzieri come degli autori di musica, come dei registi. Io quello che consiglio sempre, che poi è stato il mio percorso, che è un percorso evidentemente recente perché sono nato negli anni 80, e il consiglio è di vedere tanti film, perché poi è all'interno di tutti questi autori così diversi che hanno interpretato l'immagine cinematografica, secondo me si può in modo interessante costruire un proprio gusto, capire cosa ci ha emozionato di più, cosa ci ha emozionato di meno, e capire come si può riproporre in modo moderno una narrazione che però in qualche modo fa sempre i conti con quello che è stato il cinema. Cioè il cinema è un'arte, come dire, è un po' compressa nel tempo della storia umana, cioè è recente, ha solo 100 anni e forse sta pure per finire, e quindi è interessante perché secondo me è un modo moderno utile per comunicare storie, vicende, emozioni a un pubblico, speriamo, sempre più vasto. Senti, il tuo rapporto col cast, tu giovane regista, con un cast mi sembra anche di nomi importanti, cioè come ti sei relazionato, come ti hanno accettato, eccetera? Ma in realtà il rapporto è molto semplice, perché quando si ha una storia da raccontare, si propone la sceneggiatura, si spiega a ogni personaggio e a ogni attore cosa si vuole ottenere da quel personaggio. Io diciamo che cerco sempre di lavorare più che con attori, con persone, cioè con qualcuno che abbia qualcosa di vero e di vivo da dare ai personaggi che interpreta, affinché poi questi personaggi possano un po' uscire dallo schermo, sedersi accanto allo spettatore e instaurare anche un dialogo profondo con lo spettatore, che è la persona per la quale secondo me noi poi lavoriamo. E tutti gli attori di questo film, Claudio Santamaria, Siargento, Michele Riondino, Massimo Popolizio, Miriam Giovannelli, Andrea Bosca, Aitana Sanchez Ghion, e tutti gli attori che hanno composto il cast hanno fatto qualche cosa per appartenere ai propri personaggi, per cercare di calarsi, affondare la testa in questi personaggi, cercando poi di riemergere con una consapevolezza che permettesse a loro di comunicare il personaggio allo spettatore. Appuntamento al cinema? Non lo so, però grazie di avermelo chiesto. Comunque sicuramente nell'anno, all'inizio di quello prossimo, però non so ancora la data precisa, non te la so dire. Ti aspettiamo allora. Grazie, grazie. E questo era Gli Sfiorati, l'intervista con Matteo Rovere. Avete sentito le clip del film nelle sale italiane nella prossima stagione. La Rosa Purpurea. Ed eccoci arrivati in fondo alla corsa della Rosa Purpurea di questa settimana, con le segnalazioni dei film da vedere in un video o da vedere a casa in televisione. Come sempre per i palinsesti televisivi noi abbiamo la fida collaborazione degli amici del settimanale Film TV, e in collegamento con noi Giulio San Giorgio, che saluto. Ciao Giulio. Ciao Franco. L'ultimo sforzo pre-ferragostano anche per gli amici di Film TV. Oggi abbiamo tirato fuori un paio di film molto diversi da loro, ma secondo me accomunati da una finezza espressiva davvero straordinaria. Cominciamo con un film che lasciò tutti a bocca aperta quando fu presentato, se non erro, a un festival di Cannes. Era The Man Who Wasn't There, l'uomo che non c'era. Sì Franco, esattamente. Oggi presentiamo due film che non ci stancheremo mai di segnalare. Il primo di questi è appunto L'uomo che non c'era, domenica 14 su Iris alle 19. È l'omaggio dei fratelli Coen al genere noir, un genere che hanno coltivato davvero in tantissime forme, partendo dall'esordio di Con Blood Simple fino alla quella sorta di parodia che è Grande Lebowski, passando per Fargo. È un genere che si confà perfettamente alla filosofia dei fratelli Coen, che sono fondamentalmente deterministi, cioè nel noir non si riesce mai a cambiare vita, se si sbaglia si paga inesorabilmente. Per i Coen la questione è decisamente questa, ma solo in maniera più grottesca, leggera e anche nichilista. Bianco e nero filologico, una trama che condanna e beffa surrealmente il protagonista, un grandissimo Billy Bob Thornton, e ovviamente grandissimo cinema. E allora questo è l'appuntamento per L'uomo che non c'era su Iris domenica 14 agosto alle 19, programmazione di questo straordinario film. Così come straordinario possiamo dire anche Umberto D. Assolutamente, Umberto D mercoledì su Iris alle 11:40. Abbiamo un uomo anziano, la difficoltà di sopravvivere, uno sfratto, un suicidio mancato, l'amore per un cane, sono tantissimi elementi, ancor meno personaggi, ma la capacità di dare consistenza alla tragedia della realtà delle marginalizzati è immensa. È il punto più alto del lavoro di De Sica con Sabattini, la massima espressione del cinema neorealista e anche quella più radicale a livello estetico, senza nessun conto. Se per questo capolavoro assoluto della settima arte che Giulio Andreotti disse i sporchi si lavano in casa, oggi Umberto D è decisamente una pietra miliare della nostra cultura. E allora, Umberto D, mercoledì 17 agosto, sempre su Iris alle 11:40 del mattino. Grazie a Giulio San Giorgio e agli amici di Film TV e buon Ferragosto. Anche a voi, ciao, a presto Franco. E allora, con le segnalazioni di Film TV, noi siamo arrivati alla terza e conclusiva traccia misteriosa del film da indovinare di oggi, per provare a vincere il DVD di questo film. Vi ricordo sempre di mettere dentro anche il vostro indirizzo di posta per agevolare le operazioni di spedizione. Vi ricordo anche che i vincitori saranno avvisati dalla segreteria, almeno per questo mese di agosto, per ragioni logistiche. Ascoltiamo. Una leonessa era un po' interessata a lei. Un po'? Molto, ma non abbastanza da mangiarmi. È giusto correre dei rischi, purché poi si sia i soli a pagare. Non diresti così, Barclay? La rosa purpurea @radio24.it, c'era una leonessa, dovrebbe essere un indizio abbastanza importante per provare a indovinare di che film si tratta. E a questo punto ovviamente vi invitiamo la prossima settimana ad ascoltare la soluzione del game. E a proposito di game, ascoltiamo una delle tracce che avevamo proposto la settimana scorsa. C'è il posto e nulla posso fare. È il posto? Senti, guarda che non ho capito bene. Che hai detto? Fermi, tanto, fermi del momento. Senti, che hai detto? C'è il posto? È buono pure, municipale. E allora, si trattava di Ladri di biciclette, niente meno che, insomma, il film forse simbolo del neorealismo italiano, un film che chiaramente esisteva già in un video, ma che adesso torna all'attualità. Sentiamo perché, da Claudio Poffi. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto agli amici in ascolto. Ed è attualissimo perché arriva in alta definizione. Sembrava impossibile una proposta in HD, in Blu-ray, per un'opera così antica. Fermo restando il recupero di una pellicola in precario stato fisico, si è sicuramente lavorato molto bene per risolvere almeno i problemi più evidenti legati alla costruzione dei fotogrammi, e il risultato sicuramente di gran lunga superiore al DVD. C'è l'audio monofonico DTS ad alta risoluzione, quanto di meglio per ascoltare e visionare questo capolavoro di De Sica. Per gli extra ci sono interviste a Manuel De Sica, alla sceneggiatrice Suso Cecchi D'Amico, ad Emi De Sica, e un approfondimento sul restauro. Ricordo come sempre che durante quest'estate i vincitori li avviseremo direttamente dalla nostra segreteria qui di Radio 24. E invece passiamo a una recensione, forse il peggior film di Clint Eastwood come regista, dobbiamo dire, ma insomma anche il grande Clint, prima di diventare il grande Clint, ha toppato un attimo in certi momenti. Qui siamo di fronte a una sorta di elegia reganiana come Firefox Volpe di Fuoco. Il comando delle armi di bordo, a quanto è dato capire, deve essere ultra perfezionato. collega radar e dispositivi localizzanti agli infrarossi ad un vero e proprio arsenale comandato dal pilota solamente con il suo pensiero. In altre parole, signori, gli impulsi cerebrali vengono inseriti in un computer tramite sensori nel casco. Rilevato un obiettivo nemico, è istantaneamente distrutto. In piena guerra fredda, il maggiore dell'esercito degli Stati Uniti, Mitchell Gant, veterano dell'aviazione soggetto a sindrome da stress, viene richiamato in servizio per una pericolosa missione oltre cortina, ovvero il furto di questo formidabile velivolo russo con capacità superiore a qualsiasi altro aereo americano. Nei primi anni Ottanta, tra commedie e film della serie di Ispettore Callaghan, l'attore regista Clint Eastwood diresse se stesso in questa fantascientifica spy story, tra l'altro un budget clamoroso di $21 milioni che permise di creare questi effetti speciali ottico-visivi in un'epoca sicuramente lontana dal digitale. Da Warner Home Video il Blu-ray in alta definizione, sicuramente superiore al DVD, ci sono alcuni passaggi in cui la grana è piuttosto spessa e appesantisce le immagini più buie. L'audio italiano del Blu-ray è quello originale monofonico dell'epoca, decisamente superiore a quello di TS inglese ad alta risoluzione. Come extra, molto interessante, il documentario di 30 minuti dedicato a Clint Eastwood come regista per scoprire l'attore anche sul set di Firefox. E allora passiamo a cose più recenti. La commedia negli ultimi tempi si è fatta sicuramente molto muscolare in America, anche molto, come dire, sproloquiante in un certo senso. E allora sull'onda di un film come Una notte da leoni, un anno dopo arriva questo Parto col folle, dove accanto a un attore della saga ormai di Una notte da leoni, cioè Zach Galifianakis, c'è anche il grande Robert Downey Jr. Sentiamo. Stai lontano da me. Cribbiolino, stai bene? Che? Ti sembra uno che sta bene? Eh? Ho un braccio rotto, ho 3 costole incrinate e nella mia cazzo di ascella mi hanno messo 7 punti. Ho risposto alla tua domanda? No, non sto bene. Peter, mi dispiace tantissimo. Davvero? Guarda, Sonny è tutto un livido, io un rottame, tu non hai un graffio invece. Sì, il dottore ha detto che dormivo così sodo che non ho contratto i muscoli, lo sai, ho il sonno profondo. Sì, infatti, e il tuo cazzo di medico ti ha detto che è preferibile non prendere sonno mentre si guida? Peter è un architetto lontano per lavoro che decide di rientrare a casa dalla moglie in vista dell'imminente parto del primogenito. A causa di incredibili equivoci che iniziano prima ancora di entrare in aeroporto, si ritroverà su una lista nera che gli impedirà di volare, causa di tutto questa ingombrante presenza di Ethan, goffo aspirante attore con cane al seguito. Al fianco di Robert Downey Jr. nel ruolo dell'architetto c'è Zach Galifianakis, simpatico attore barbuto delle Notti da Leoni, e il divertimento è sicuramente goliardico, non manca nonostante un paio di scivolate di cattivo gusto. Uscita DVD ma soprattutto Blu-ray da Warner Home Video, sono entrambi prodotti di qualità, specie il disco in alta definizione che ha immagini rasenti la perfezione. Traccia Dolby Digital italiano purtroppo identica al DVD, ma sicuramente migliore la DTS ad alta risoluzione in inglese. Come extra segnaliamo le scene inedite, ma oltre a un focus sul personaggio interpretato da Galifianakis c'è una divertente compilation con i momenti più ilari del film. E noi chiudiamo la nostra carrellata di recensioni con un altro film di genere bellico. Andiamo indietro nel tempo con un film anche poco conosciuto, interpretato però da un grande come Bernard Vicky, che si intitola Due volte non si muore. Odio questa guerra. La odio. Non si tratta solo di odiare la guerra, non è sufficiente. È molto più importante infrangere il mito della guerra, far capire agli uomini quanto perverso sia il meccanismo che la determina. E quanto sarebbe più bello operare in pace invece di inseguire una croce di ferro. Ma che cos'è veramente la guerra? Sudore, sangue, infezioni, urina. Presto la conosceremo anche noi. Già, e quanto durerà? Passerà solo qualche anno e tutti avranno dimenticato. Risorgerà il mito dell'eroismo e si diffonderà come la gramigna. Occupata dai nazisti, un giovane soldato è condannato a morte per aver cercato di fuggire con una ragazza del posto di cui si è innamorato. Il sacerdote, incaricato di assisterlo nelle ultime ore prima della fucilazione, si rende ben presto conto di non avere a che fare con un codardo, ma con un uomo di tutt'altra pasta. Tra i numerosi inediti curati da Koch Media c'è anche questo Due volte non si muore, che come numerose produzioni tedesche degli anni 50 indaga la ricerca delle responsabilità dei singoli nel corso di un conflitto macchiato di barbarie. Anche il cinema aiutò sicuramente la Germania sconfitta a guardarsi dentro per comprendere gli errori commessi e rinascere a nuova vita. Il DVD è di qualità video discreta, ci sono momenti di opacità, danni alla pellicola, ma sicuramente la visione è interessante e ricordiamo, per un film del 1958, doppia traccia monofonica, italiano e tedesco di sufficiente resa, come extra trailer e fotogallery. Grazie Claudio, ci risentiamo la prossima settimana. Ciao, a presto. E allora buon Ferragosto a tutti, qui dalla Rosa Purpura, da Radio 24, appuntamento a sabato e domenica prossime, arriveranno i primi film che possiamo definire della nuova stagione prima che poi sia il Festival di Venezia ad aprire davvero le danze. Un saluto da Franco D'Assisi.